Pane, burro, rock and roll, sono le 7:30 minuti primi. L'astronave è già decollata. Oggi è la puntata spaziale. Direzione 9 del mattino. Ci sta ascoltando anche il patentato 141. È sul terribile Malpensa Express. Si avvia verso l'ennesima pallosissima trasferta di lavoro, vestito come un pinguino. Ma dall'auricolare del suo cellulare scrive: non escono telefonate di lavoro, bensì le vostre note. Rocker Inside. Ciao pinguino, ti vogliamo bene! Oh, voglio fare una settimana speciale vestito da pinguino anch'io. Perché secondo me, sono convinto, non è l'abito che fa il mondo. Cioè, se io venissi in giacca e cravatta, sarei rock lo stesso, come loro là fuori. 147, siamo lì, al tuo fianco. E grazie anche a tutti quelli che si stanno già iscrivendo per il provino per diventare musicisti rock con la bocca. Bravi, sapevamo di poter contare su di voi. E me, che c'è? Two, three, four. Oh, down beside that red firelight. Oh, you're gonna let it all hang out. Fat bottom girls who make the rock and world go round. Yeah. The Queen. Take me home tonight. Oh, come beside your Oggi l'attacco alla Marilyn. Happy birthday to you. Happy birthday to you. I compleanni del giorno nel 7 di novembre. I nati del 7 novembre. Guardi qui chi è nato nell'879. Un vero rivoluzionario. Sì, ovvero il grande Liu Trotsky. No, ma non dica stupidate, non era americano, era russo. Lev Trotsky. Che tra l'altro fece un'orribile fine, giustiziato per così dire, fra tante virgolette, dai sicari di Stalin. Rivoluzionario russo. Passiamo al secondo, anche questo, mio caro Mike, buongiorno, non è inglese, è francese, nasceva nel 1931... Albert Camus. Le ho anche detto che era francese. Romanziere, filosofo, scomparso nel 60. E soprattutto era un drammaturgo. Drammaturgo. Francese. Sapeva anche le lingue dell'Islam. 1957 nasceva Massimo Ciavarro, attore italiano, conosciuto negli anni 80 soprattutto al pubblico femminile perché è protagonista di fotoromanzi per il settimanale Grand Hotel. Lei frica mai fatto dei fotoromanzi? No, robetta di serie B, io posso fare ben altro. Tipo l'attore porno, esatto. Prova così. E comunque, vero, ci terrei a fare gli auguri a Mirjana Trevisan, che è stata una mia, Valletta, fantastico. Auguri Mirjana. Auguri Mirjana per la tua carriera di porno star. Story. sì, nell'attesa che Dio ci regali il dono di un falsetto come il cantante dei Triumph di Lady on the Line, noi aspettiamo suonando del buon rock con la bocca, che è molto più semplice, non c'è bisogno di avere il falsetto, non c'è bisogno di nessun dono divino, la si fa abbastanza semplicemente. Chiedo solo una cortesia a coloro che già si stanno iscrivendo al corso per musicisti rock con la bocca. Allora, verrete richiamati tra un paio di settimane, lasciateci il tempo di organizzare questi provini. La gentilezza che vi chiedo, se vi siete già iscritti, io vi garantisco all'80% che la nostra redazione terrà il vostro messaggio. Quindi non iscrivetevi più volte, tanto ho fatto bene a dirglielo, sì. Anche perché adesso devo, sì, Spadino, avrei un momento serio. Ecco, bravo, un momento, una confessione che devo farvi. Ciao, mi chiamo Riele, trasmetto musica rock da una dozzina d'anni, lo faccio con impegno, la mia passione, ma ho alcuni problemi. Era abbastanza evidente che io avessi alcuni problemi. Un problema che sento forte è di non essere molto in grado di parlare dialetto. Devo confessarvi che la mia infanzia varesotta, molto triste, non ho avuto dei nonni che mi insegnassero, che parlassero il dialetto in casa, e l'ho sempre sentita come una menomazione, questa cosa di non essere capace di parlare dialetto. Ero circondato da giovani teenager razzistelli che un po' lo parlavano, ma io non ne sono mai stato in grado. E quindi quando ricevo messaggi, soprattutto in dialetto che dovrebbe essere mio e so di non essere in grado di leggerli bene, sento un po' questa carenza, insomma, il superomismo che c'è in me un po' latita. Quindi, caro Franz, tenterò di leggere il tuo messaggio con impegno, ma non garantisco che venga bene. Avrei bisogno di qualche corso di ripetizione, magari chiederò al buon Fabione, che lui so che è messo bene. È uno dei tanti commenti arrivati sul brano dei Metallica programmato. Ci provo, non ci rimanete male, soprattutto voi di Milano, perché non è stata colpa mia se non mi hanno fatto parlare dialetto da piccolo. Allora, sun chi da stamattina ai cincur e sun talment strac che a riesi gnaca cantà. Mi stava venendo bene. Che a riesci gnaca cantà la canzun dei Metallica. Vutemes, Ariel. Close your eyes and I'll kiss you. Pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Thank you. con grande emozione che devo annunciare la mia rubrica preferita all'interno di Pane, Burro e Rock'n'Roll, il contatto vivo, reale con i nostri piccoli amici, piccoli ma grandi ammiratori, i bambini che ascoltano la trasmissione. Ce n'è uno di riferimento, si chiama Francè e dovremmo avercelo in linea. Pronto, Francè? Ma Francè? Ma no, ma di solito la ma sei triste? Sì, un po'. A scuola. Stai andando a scuola, Francè? Io non ci voglio andare a scuola. Ho capito che non ci vuoi andare, però capiamoci, ci devi andare, si impara, lo so che è pesante leggere i libri. Però ma no, non per imparare, perché i compagnucci miei bulli, sono bulli i compagnucci miei. C'è del nonnismo, il nonnismo, fanno del nonnismo. Che ti combinano, Francè? Mi mettono la testa nel cesso, fanno sì, gavettoni delle tame. No, ma come? Mi rubano le mutande. Ti rubano le mutande. Ma i professori non dicono nulla, i professori, il preside, non lo sa. I professori non se ne accorgono. No, Francè. Guarda che ci preoccupiamo. Ma tu, adesso sto andando. Ti difendi? Sto andando a scuola, mi hanno fatto la cacca sul banco. No, ma questo è incredibile. Francesco è da denuncia, eh? Ma tu ti difendi, Francesco? E papà mi ha detto, reagisci, uomo, tu devi essere uomo. Certo. Sì, fallo metto, devi reagire, meglio. E cosa fai? Io, no, perché metal è cattivo, però non è che meni, capito? Metal non meni, metal sei cattivo, capelli lunghi. Però non è che meni. Allora che faccio? Io gli metto le goccette. Ah, le goccette di mamma. Certo, una merenda, sì. Che si sparano una dormita incredibile, ragazzi. E poi gli metto il whisky dell'aranciata. Beh, sembra una Coca-Cola, gli metto whisky. Sembra che le idee chiare ce le hai, Francè. Sì, lo so. Senti, ma dopo gli ho messo, sai che gli ho messo dopo? Cosa? I capi morti nel diario. No, adesso non esageriamo, Francesco. Si rischiano anche delle malattie infettive. Stai tranquillo. Beh, ma tanto è pieno loro, mica io. Questo hai ragionissimo. Senti, non farci preoccupare e facci sapere come va. Sì, intanto ma mi sa che te devo salutare perché devo andare a dire all'amichetto loro che loro sono fraci. Francesco, sei sulla strada giusta. Facci sapere, Continua bene, così. Ma tranquilli, raga, che mo gli dico delle cose che ci penso io. Difenditi. Jessica, lo sai che l'amico tuo è fascio? Ciao Francesco. Non sta bene, ciao. Però, non sta molto bene. L'importante è difendersi nella maniera giusta. Ma questo ragazzo è veramente inimmaginabile. So I'll listen, yeah. I'm just a boy, but I will win, yeah. Lost song of lovers, fellow travelers, yeah. Leave me sad and hollow, I'll find a word. It could happen to you. So think for yourself. If I should stumble, catch my fall, yeah. If I should stumble, catch my fall, catch my fall. If I should stumble. Unwind my own truth, yeah. I've laid my head on the rock of youth, yeah. I've trusted and then broken my own word just to keep me free in this mad world. It could happen to you. So think for yourself. If I should stumble, catch my phone, yeah. If I should stumble, catch my phone. it could happen to you. So think for yourself. If I should stumble, would you catch my fall? Yeah. If I should stumble, would you catch my fall? Yeah. If I should stumble, won't you catch my fall? If I should stumble. Non mi viene tanto, eh? Billy Idol, Catch My Fall. Au! 335-100-7777. Nostro numero di SMS, Ariel, chiocciola, radiorockfm.com. La nostra casella di posta elettronica. Partecipate anche voi in questa 124esima puntata di Pane, Burro e Rock and Roll. Siamo sempre alla ricerca di rocker disperati, di rocker che vivono male la loro rocchitudine a causa di chi li circonda. Figli poco rock, mogli poco rock, amanti poco rock, mariti poco rock, fidanti, insomma, ci siamo capiti. Vogliamo sentire le vostre testimonianze. Scriveteci e sarete ricontattati. Come d'altra parte saranno ricontattati anche coloro che si stanno iscrivendo per il provino di musicisti rock con la bocca. Intanto, in questo 7 di novembre, io continuo a programmare grandissima musica, come facciamo sempre qui dalle frequenze di Rock FM, ma oggi in maniera particolare, non so perché, a volte la nostra scaletta ha un fluido in più, ha una marcia in più, ed è il caso del brano che sto per spararvi. Ci si risente poi per la seconda ora di diretta di quest'oggi. Intanto, se vi va, mollate tutto, come ha fatto un'amica, scriveva prima, quando sono passati i Metallica. Io mollo il pane qui, eccola qui. Fermo il furgone, volume al massimo, e vaffanculo al pane, alle consegne. Aspetteranno. Strombazzate, ne ho indietro un po'. C'è Ste che ne chiedeva una particolare, dedicata a chi non c'è più. Si lamentava per... anche lui per i Metallica, dice: non potete far risvegliare sentimenti sepolti sotto anni. Ste, siamo lì con te. E invece, no, i commenti della mia lettura in dialetto preferisco non leggerli. Facciamo così, vi regalo David Bowie. A me questa mi fa male di canzone, sì. Me la canto tutta, spegni il microfono, spadino. Spegni il microfono, che io canto. Si può fare anche il theremin con la bocca. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting. sitting in a tin can. Cosa c'è che non va, frigo? E c'è che a meno che tu non sia diventato un panchettone all'improvviso, non capisco questa nuova cresta. Ah, questa! Sì, sì, bella, vero? È che gli umani stanno testando un nuovo gel, come lo chiamano loro, e mi sembri si chiami stucchevole, stucco, stucchevole, qualcosa del genere, insomma lascia i capelli dritti per una settimana. Beh, almeno stavolta non ci sono effetti collaterali. Ma veramente, frigo, uno ci sarebbe. Ovvero? I capelli sono l'unica cosa che mi rimane dritta.